passione sei schernito. Ma fratel, padre spietato, con indegna son tradito. Non t'ascolto, cuore ingrato, che non vedi di pietà. Indegne, sono così.